La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. L'articolo 45 si spiega e si giustifica in una lettura complessiva della Costituzione economica. Gli articoli 41, 42 e 43 pongono i due tipi fondamentali di impresa, l'impresa privata e l'impresa pubblica, perché la visione socialista dell'economia prevedeva e consentiva un massiccio intervento dello Stato nell'ambito dell'economia a fini di interesse generale, su cui sono state legittimate anche tutte le forme e tutti i tentativi di programmazione economica. Invece l'articolo 45 prevede una terza via dell'economia, che è la cooperazione. Ovviamente va letta ed intesa in una società in formazione come era la società degli anni 40 del secolo scorso, quando c'era una forte esigenza di far partecipare i cittadini. E i cittadini, i piccoli imprenditori, potevano crescere soprattutto mediante le forme della cooperazione. Ecco allora che la Repubblica ne riconosce la funzione sociale e la legge ne promuove e favorisce l'incremento. Anche qui, declinazione dell'eguaglianza sostanziale per far partecipare i piccoli imprenditori alla gestione della cosa pubblica. Parallelamente, il secondo comma pone una garanzia a favore dell'artigianato. L'artigianato ovviamente è un'altra piccola attività dei piccoli imprenditori che vanno tutelati e formati per crescere e partecipare in maniera adeguata alla gestione dello Stato. Ecco allora che la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Anche qui ovviamente l'articolo 45 sa di anacronistico, perché sono elementi di una visione ormai un po' superata dallo sviluppo dell'economia. Ma si tratta di principi importanti, soprattutto per comprendere qual era la visione del Costituente rispetto allo sviluppo dell'economia, sempre incentrata sulla funzione del lavoro, ma anche sulla piena partecipazione dei cittadini e la loro elevazione sociale. In fondo va considerato anche che l'artigianato rappresenta una forma di tutela delle minoranze, perché molto spesso gli artigiani costituiscono delle fette di società in cui ci si trasmette di padre in figlio un determinato lavoro e quindi si viene anche configurati come una minoranza produttiva che va tutelata e valorizzata. Del resto, e qui vediamo l'eterogenesi dei fini, l'artigianato che negli anni 40 era una delle modalità di far sviluppare l'economia, oggi sta tornando come recupero delle tradizioni, per cui le disposizioni della Costituzione vanno lasciate e fatte vivere, perché possono comunque tornare attuali a seconda dello sviluppo del sistema produttivo.